te. Mix 24, i gialli della storia. Ci sono certi animali che vengono mangiati, che mentre vengono mangiati non fanno tanta pietà, perché in realtà desiderano di essere mangiati. Ora può darsi che sia uno di quegli animali che desiderano di essere mangiati e quindi provochi l'appetito degli altri. Vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Il 2 novembre del 75, in mezzo alle baracche dell'idroscalo di Ostia, viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, regista, intellettuale scomodo. E su questo delitto così efferato, brutale, sembra impossibile ancora oggi poter mettere la parola fine. Un giallo che lascia aperti molti dubbi e molte perplessità. Ma chi poteva volere la morte di Pasolini? Oggi a Mix 24 ricorderemo il suo talento, la sua storia e affronteremo le contraddizioni legate alla sua morte. E nelle sue parole è presente anche un presagio, come appare nell'ultima intervista rilasciata a Furio Colombo poche ore prima dell'omicidio. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona. Ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio, ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Le vostre obiezioni sono sbagliate, perché non vi siete accorti che dai codici della malavita, come da quella che chiamate politica, è ormai esclusa l'umanità. Oggi si deve uccidere. Voi non avete idea di quanti siano a crederlo. La morte è un comportamento di massa. Mai pensato che quella intervista fosse la rivelazione e l'anticipazione della sua morte. No, ho pensato che quella intervista, l'ho pensato sempre di più a mano che gli anni sono passati, fosse l'anticipazione del tempo in cui stavamo entrando. Ma che cosa è successo veramente quella notte a Ostia? Perché sembra impossibile ancora oggi chiudere il caso Pasolini? In un'intervista a Franca Leosini, Pino Pelosi, il ragazzo di vita condannato per aver ucciso Pasolini, ha proposto una nuova sconcertante verità su quella notte. Lui diceva: dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina. Una persona civilissima, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale, diciamo. Io sono sceso dall'autovettura, mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori. E lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito e questo urlava, sto poraccio urlava e questi lo stavano a massacrare. A un certo punto gli hanno detto: arruso, fetuso, sporco comunista. Buongiorno e buona domenica. È stato assassinato lo scrittore, regista, poeta Pierpaolo Pasolini. Quando la notizia si diffonde, tutto il mondo della cultura è sconcertato e incredulo, come testimoniano Bernardo Bertolucci, Dacia Maraini e Furio Colombo. Credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre. E questo è sconvolgente. La madre, dopo quel giorno, è come impazzita, perché lei continuava a parlare come se lui fosse sempre vivo. E diceva, quando andavamo a trovare, diceva: no, Pierpaolo è in giardino, dice, adesso arriva, volete un po' di tè? Dice, sta mettendo a posto i fiori, così, insomma, lei ne parlava come se fosse vivo. Nulla è stato accertato, chiarito, capito o ricostruito al di là della immagine, della tremenda immagine sfocata in cui a fuoco era soltanto il cadavere di Pasolini. Eppure, per gli inquirenti tutto sembra chiaro. E tutto è chiaro da subito. Ma forse è tutto chiaro troppo in fretta, come ricorda Stefano Rodotà. Come reagiscono le istituzioni alla morte di Pasolini? L'omicidio viene immediatamente degradato, hanno ammazzato un frocio. E quindi non c'è. È semplice. Questo spiega forse la superficialità delle indagini dei carabinieri, che omettono in quel momento di raccogliere informazioni che sarebbero state capitali poi per un miglior svolgimento del processo. Il 2 novembre all'1:30 del mattino i carabinieri fermano un Alfa Romeo GT che procede contromano a gran velocità sul lungomare di Ostia. Alla guida c'è Giuseppe Pelosi. Il corpo di Pasolini verrà trovato poche ore più tardi e sul luogo si accalcheranno curiosi, amici, giornalisti, confondendo tracce e indizi. La famiglia di Pasolini ha intanto incaricato l'avvocato Nino Marazzita di seguire il caso. Il sostituto procuratore chiese a me, dopo due giorni dalla morte di Pierpaolo, dov'era l'autovettura, dov'era la macchina. Arrivò una lettera a Paese Sera, però indirizzata a me, in cui si diceva Pelosi e Pasolini sono stati seguiti da un'autovettura, 1100, non sono sicuro, ma c'era indicato un tipo di autovettura Fiat, di colore blu, targata Catania, e mi si davano tre numeri di targa. Io feci una richiesta. Si può accertare facilmente attraverso il pubblico registro automobilistico. Beh, tutto questo fu assolutamente inascoltato. Insomma, indagini fatte male e superficialmente. Del resto, l'arresto di Pelosi sembra risolvere facilmente tutto. Un incontro omosessuale finito male è la versione più semplice e ovvia per risolvere il caso di una morte scomoda. Ma perché la figura di Pierpaolo Pasolini è scomoda? Cioè, chi era Pasolini? E lo sentiamo dalla voce della persona più importante della sua vita, la mamma, Susanna Colussi. È sempre stato molto affettuoso, ecco. Quando dicevo, per esempio, sto poco bene, mi duole la testa, sì, lui si inginocchiava davanti a un'immagine della Madonna e la pregava. Piangeva finché non gli dicevo che stavo bene proprio. Just a perfect day. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. E quell'angoscia di cui Pasolini scrive è nata molti anni prima con la morte del fratello Guido, a cui era molto legato, ucciso dai partigiani nel 45. E quando Pasolini, in Il Vangelo secondo Matteo, deve dare un volto al dolore della Madonna disperata per la morte del figlio sulla croce, sceglierà il volto di sua madre. Sono riuscita a entrare nel personaggio pensando al dolore che ho provato quando è morto quell'altro mio figlio. Ma pensando a Guido? Ho pensato a Guido, sì. Che avevo paura proprio di impazzire. Allora dico, anche la Madonna forse avrà sofferto tanto a vedere il figlio in croce. Ma in realtà mio fratello continua a rappresentare, non soltanto lo rappresenta, quello che io avrei voluto essere. Tutto questo ancora resiste? Sì, resiste ancora e insieme col dolore che provo per la sua morte che non ho mai esaurito. Perché quando è morto, nell'aiutare a mia madre a sopportare, a superare questo momento, ho costretto me stesso a non pensarci, a esserne come immune, illeso, a essere abbastanza forte per sostenere mia madre. Quindi non l'ho mai smaltito e ce l'ho ancora dentro. Dopo la guerra, Pasolini è un giovane poeta già apprezzato dagli ambienti letterari vicino al Partito Comunista. Poi, nel 49, cambia tutto. Nel 49 infatti Pasolini viene accusato di aver molestato alcuni ragazzi e viene rinviato a giudizio. Al processo viene assolto, ma il PC lo espelle ugualmente per indegnità. Ma in realtà quello del 49 è solo il primo di un'infinita serie di processi che vedono Pasolini imputato, non solo per la sua vita privata, ma anche e soprattutto per le sue opere, come racconta Stefano Rodotà. Pasolini viene consegnato nelle mani della giustizia immediatamente con il suo esordio nella letteratura, il libro Ragazzi di vita, e rimane prigioniero di questa macchina fino al momento della morte e dobbiamo dire anche dopo. Pasolini quindi viene continuamente denunciato e processato per atti osceni e vilipendio della religione. Chiamato a dar conto della sua vita, delle sue opere, dei suoi film, centinaia di udienze, un rapporto quasi quotidiano con le aule di giustizia, quasi fosse un unico ininterrotto processo. Ne parlano Furio Colombo, Stefano Rodotà e Nino Marazzita, l'avvocato. C'è un modo, come dire, indiretto di uccidere, quello di creare un vuoto, di delegittimare una persona, quella di creare un'atmosfera, ma è un povero omosessuale. In love not given lightly. Il mondo in disordine che pretende di essere in ordine, che detesta sentirsi dire che è in disordine e nel quale la noia e il fastidio per il profeta è fortissima. Pasolini è eretico, rispetto alle idee correnti, alla morale diffusa, allo stereotipo dell'uomo medio, che è quello che si vuole in ogni modo salvaguardare e proteggere contro le persone come Pasolini. Ma è sempre la sua vita scandalosa, la sua omosessualità, il suo mondo fatto di ragazzi delle borgate a provocare la reazione violenta, l'aggressione. Ancora Stefano Rodotà e Dacia Maraini. Una serie di ambienti avevano fisicamente aggredito Pasolini attraverso una serie di persone o lo avevano indicato ripetutamente per anni, dobbiamo dirlo, gli ambienti fascisti avevano individuato e indicato in Pasolini un bersaglio. Che ci fosse un'atmosfera di odio e di incitazione all'odio e probabilmente un odio tale che portava anche al delitto, non c'è dubbio. Io mi ricordo che al cinema, all'Adriano, che siamo usciti e c'era un gruppo di ragazzi che ha cominciato a chiamarlo Paola. Lui era furibondo, mi ricordo, perché avevano un tono così dileggiante e l'abbiamo tenuto perché voleva andare subito a fare a pugni. Contro Pasolini, insomma, monta un clima sempre più ostile, sempre più aggressivo. E del resto lui è un bersaglio troppo facile per tanti, troppi nemici. Ma quali sono i punti ancora oscuri che tengono aperto questo caso? Il primo indizio è la forza fisica di Pasolini. Sentiamo Nino Marazzita, il legale. Non era facile avere il sopravvento fisico su Pierpaolo Pasolini. Nella ricostruzione che è stata fatta, Pierpaolo Pasolini ha perduto le forze, è stato completamente depauperato da qualunque forza fisica, con un calcio nei testicoli. Ed è un pestaggio fatto con corpi contundenti violenti, con mazze di ferro, non lo so. Pasolini si è difeso parecchio, qualcuno ha portato i segni a casa. Indizio numero 2, l'arresto di Pelosi. Pelosi viene trovato come un figurino, scende dalla macchina come un figurino, non ha uno strappo, la camicia a posto. È una persona che sicuramente non ha affrontato una colluttazione. Indizio numero 3. La macchia di sangue sulla macchina di Pasolini. Ricordo che questa macchia di sangue era sulla parte superiore della macchina, sul tetto della macchina, diciamo così, dalla parte del passeggero. Il sangue non era né di Pierpaolo né di Pelosi. Ma se Pelosi quella notte non era da solo, allora chi c'era con lui? O meglio, di chi sono quegli oggetti rinvenuti nell'Alfa Romeo di Pasolini che non appartengono né allo scrittore né a Pelosi? Indizio numero 4, il plantare. Il plantare è un correttivo che si usa all'interno di una scarpa. Evidentemente in genere per una persona che ha dei problemi fisici di deambulazione. Era facile trovare negli ambienti della malavita quelle 4, 5, 6 persone che avevano problemi di deambulazione fisica. La malavita romana degli anni 70, una mala violenta che collabora coi mafiosi, camorristi e terroristi di destra. Già nel 75 un carabiniere infiltrato raccoglie voci e sospetti, eppure i suoi rapporti finiscono nel nulla. Indizio numero 5, l'infiltrato. L'appuntato Sansone era un infiltrato, aveva il ruolo di infiltrato per captare notizie sulla morte, sull'uccisione di Pierpaolo, e aveva riferito, aveva tentato di riferire di aver saputo che sul luogo dell'omicidio c'erano 4 persone: i fratelli Borsellino, Johnny, detto Johnny il Mastino, e Pelosi. Non era mai stato sentito. Ma qualunque cosa sia successa quella notte all'idroscalo, una cosa forse è certa. Nelle sue opere, come nella sua morte, i grandi protagonisti della vita di Pierpaolo Pasolini sono stati loro, i ragazzi di vita. Parla Silvio Parrello, amico di Pasolini. Pierpaolo Pasolini venne qui da noi nel 1954 ad abitare a via Fontagliana 86. Frequentava assiduamente il quartiere, in quanto qui c'era il campetto di pallone e in quanto lui scriveva ragazzi di vita. Praticamente era uno di noi, non c'erano problemi di nessun genere, insomma. Ci aveva uno sguardo, la fisionomia sembrava una faccia da ladro, però poi quando parlava incantava, delicato, e poi un'altra categoria, insomma. Consacrare definitivamente Pasolini come scrittore e ragazzi di vita nel 55, un romanzo nuovo, straordinario, ma naturalmente come sempre anche un romanzo che fa scandalo. E lo scandalo si ripete pochi anni dopo, quando Pasolini diventa anche regista, come racconta Furio Colombo. Era un uomo molto forte ed era un uomo che disponeva della sua parte di forza per reagire e contrastare, per esempio il cinema. Era un personaggio di statura internazionale, certamente nell'opinione pubblica europea, francese, tedesca, ma anche in quella americana. Parlo della cultura, naturalmente, parlo di New York, ovviamente, delle grandi università, ma c'era Pasolini il poeta e c'era Pasolini l'uomo di cinema. Il grande successo arriva con L'accattone del 61, ma sarà comunque un successo legato sempre e comunque allo scandalo. Sentiamolo con Enzo Biagi. Evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico. Vedo sempre le cose come un po' miracolose. Ogni oggetto per me è miracoloso. Cioè, ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, no? Insincere, irreali. Mi dice il Vangelo, il Vangelo di Cristo? Sì. No, non pensare, no. Allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. Pasolini è un protagonista, un testimone del suo tempo, ma con il passare degli anni diventa sempre più inquieto, anche nei momenti di apparente serenità, come ricorda Bernardo Bertolucci. Mi era venuto a trovare 2 volte mentre girava a Salò. Loro giravano a Mantova, noi giravamo a Parma. E poi le 2 troupe si misero d'accordo per un incontro di calcio che avvenne il 16 marzo, che è anche il mio compleanno. Cominciò la partita, naturalmente Pierpaolo giocava con la squadra di Salò, perché lui ha sempre amato molto giocare a pallone e quelle che lui chiamava le partitelle. Cominciò in modo molto divertente, con grande entusiasmo. Poi piano piano qualcosa andava inquinando la gioia e l'allegria della partita. Che cos'era? Che poco per volta i giocatori di Novecento, i giocatori di Salò, cioè i macchinisti, gli elettricisti, insomma quelli che erano sui film, piano piano si tiravano indietro ed entravano delle facce nuove che erano dei giocatori veri, non so, delle riserve del Parma o addirittura c'era qualcuno della Roma e diventò una partita vera. A quel punto ho visto che Pierpaolo cominciava a essere molto irritato perché queste facce nuove, per esempio, suoi nuovi compagni di squadra non gli passavano mai la palla. E un quarto d'ora prima della fine lui disse basta e venne lì dove stavo io di fianco e mi disse sono tutti dei narcisetti. Pasolini si accorge che la società sta cambiando. Il boom economico ha travolto i quartieri e le persone modificandole e di questo è turbato. Sono direttamente interessato a quelli che sono i cambiamenti storici. Cioè io tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando. E quindi questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana, è un problema mio. Di quel cambiamento Pasolini è testimone e non perde occasione per prese di posizione sconcertanti e imprevedibili, come quella contro il movimento studentesco nel 68, quando scrive contro gli studenti borghesi e difende i poliziotti perché proletari. Ma c'è anche un altro bersaglio nel mirino di Pasolini, la televisione, ancora Furio Colombo. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. L'intuizione di Pasolini era lo strumento in sé sta disattivando la partecipazione alla responsabilità individuale, al fatto che io, te, lui, gli altri sono cittadini chiamati a partecipare, chiamati a decidere, chiamati a giudicare. Questo strumento delega, questo strumento fa diventare pubblico, fa diventare audience. Questa era la sua anticipazione. Con la sua morte Pasolini lascia un vuoto che potrà essere colmato solo dalla verità intorno al giallo del suo omicidio. Ancora le parole di Stefano Rodotà. Negli ultimi anni non si era per niente, come dire, addolcito, non aveva per nulla abbandonato l'aggressività, anzi le ultime opere che abbiamo visto, conosciuto, postume o degli ultimi anni della sua vita testimoniavano forse addirittura un'asprezza maggiore. Io mi sono sempre domandato se questo dipendesse dal fatto che ho già dal fatto che lui sentisse sempre il bisogno di una provocazione positiva sempre più forte o anche da una disillusione, perché vedeva la fatica con cui le cose a cui era attaccato camminavano o la perdita lungo la strada di cose che gli sembravano importanti. E poiché la società italiana non è migliorata, Pasolini sarebbe rimasto sempre un testimone scomodo e aggressivo. IBL Banca. Migliora la vita di tutti i giorni. Vi ha presentato Mix 24.